la tende il padre mio, ed io per conseguenza, figlio di sua eccellenza, son cavalier che conta l'origine d'un re. Figlio del re Pipino, fu il padre del fratello, del padre del cugino, del nonno di mio zio, son cavalier di stirpe, di stirpe. Voi ringraziar potete la vostra amica sorte, che dentro queste parti i oggi contarete, un cavalier di voi più nobile non me. Sì, voi ringraziar potete un cavalier di cui più nobile.